Dunque, io vi parlo da Teheran e noi siamo un gruppo di persone che appartenenti, diciamo, in generale al movimento, che in occasione di questa manifestazione mondiale contro la guerra del 20 marzo, anche parallelamente ad altre carovane che sono partite per la Palestina e per il Kurdistan, noi siamo, diciamo, in avanscoperta in Iran. Stiamo facendo questa esperienza perché questa è sicuramente una delle situazioni che conosciamo meno, anche come movimento, come relazioni, come contatti, però è una situazione sicuramente molto interessante dal punto di vista del movimento, diciamo, in generale, cioè intendo come movimento della società, come trasformazioni possibili, e una situazione sicuramente in ebollizione. Io velocemente, siccome siamo arrivati da pochissimi giorni e abbiamo iniziato a cercare di capire questa situazione, ed è molto complicato, molto difficile, questo penso che sia intuitivo, però sicuramente una prima impressione che posso dare è che questo è un paese che è veramente ricco da un punto di vista culturale, intellettuale, ed è in trasformazione. Il primo dato essenziale è che questo è un paese molto giovane, è un paese giovanissimo, il 70% della popolazione ha meno di 40 anni e quindi questo sicuramente è un dato che sembra fondamentale, importante, perché questa grossa massa di giovani che in gran parte studiano le scuole superiori, studiano all'università, è sicuramente un elemento di distinzione e di caratterizzazione enorme. Noi oggi in particolare abbiamo fatto i primi incontri, che sono appunto incontri delle scoperte, perché abbiamo incontrato delle persone che pensiamo siano interessanti e comunque dalle quali abbiamo cercato di capire qual è la situazione di questo paese. E un economista, un ricercatore che studia all'università statale pubblica di Teheran, che ci ha raccontato un po' la situazione economica del paese e descrivendoci comunque anche una situazione critica dal punto di vista economico, con tassi di disoccupazione elevati e con tassi anche di povertà diffusa abbastanza elevati, in una situazione in cui fare battaglie sindacali, fare battaglie politiche è molto difficile, perché c'è comunque un quadro, se non drammatico dal punto di vista repressivo, comunque un quadro abbastanza chiuso, insomma, cioè non è facile organizzarsi in sindacati, anzi i sindacati sono solo ufficiali, ci sono dei sindacati alternativi e informali che però non è che riescono a fare molta attività. E c'è inoltre una problematica legata al lavoro, in particolare di lavoratori che vengono dall'estero, in particolare dall'Afghanistan. L'Iran è un paese che ha accolto, tra l'altro, anche per interessi economici, i lavoratori e le persone profughi dall'Afghanistan dopo la guerra, che però creano qui, e come anche in altri paesi, un problema di abbassamento del costo del lavoro, quindi questo è un problema grosso. Ora, queste sono per noi le prime impressioni, abbiamo l'idea di un paese comunque che sta comunque crescendo, una classe intellettuale di giovani e di studenti che sono molto vivaci, molto attivi, anche sul piano della ricerca, della conoscenza e della voglia anche di uscire fuori da un regime che è un po' chiuso, perché comunque questa è una repubblica islamica, nella quale però è molto contraddittoria e molto conflittuale, perché è una repubblica islamica però nella quale, sebbene le donne abbiano il velo eccetera, però sono molto presenti, la presenza femminile è enorme sia nel mondo del lavoro che nel mondo universitario degli studi, quindi diciamo che per il momento questa è la prima impressione che abbiamo tratto. Ora nei prossimi giorni magari riusciremo a dare un quadro anche più generale. Clementina, pensi che il 20 marzo si muoverà qualcosa anche in Iran? Guarda, le informazioni che abbiamo sono che gli studenti, che qui sono la parte naturalmente che in passato ha organizzato anche delle iniziative, non ci sembra che stiano organizzando delle cose particolari, ma c'è anche un motivo specifico. Qui è una festa molto importante in questi giorni, perché è il Capodanno e proprio il 20, tra il 20 e il 21 è la festa più importante dell'anno, quindi gli studenti sono in vacanza, le università sono chiuse. E poi c'è anche un altro problema, cioè che molti studenti in passato, nel luglio, quando hanno fatto delle iniziative e mobilitazioni, sono stati arrestati, poi rilasciati, però hanno dei procedimenti in corso in questo momento. E allora sicuramente sarà una data non un po' sottotono rispetto a quello che ci si può immaginare, ma naturalmente per motivi comprensibili.